Allora, il Banco Informatico, che come diceva lei è una ONLUS, è un'associazione di volontariato, ha come scopo istituzionale, statutario, quello di ritirare dalle aziende sostanzialmente computer dismessi ma ancora funzionanti, ricondizionarli e destinarli a sua volta in donazione ad enti non profit bisognosi sia in Italia che all'estero. Senta, quando parliamo di computer, e parliamo di computer un po' vecchiotti, ma che tipo di computer? Ma in questo momento abbiamo posto come soglia tecnica minima un processore analogo di caratteristiche al Pentium 3, quindi parliamo di computer di circa 7-8 anni di vita massima. Questo perché al di sotto di questa soglia non riusciamo poi a riutilizzarli al meglio e comunque a mettere in condizione i nostri destinatari di avere a disposizione degli strumenti che abbiano almeno delle prestazioni minime che oggi ormai sono richieste da tutti.